Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Appena rientrai, trovai la seguente lettera di mio padre. Mio caro Victor, hai atteso probabilmente con impazienza una lettera che fissasse la data del tuo ritorno fra noi e ho provato dapprima la tentazione di scriverti solo poche righe accennando al giorno in cui ti avremmo aspettato, ma sarebbe stato un riguardo crudele e me ne è mancato il coraggio. Quale sarebbe stata la tua sorpresa, figlio mio, nel trovare lacrime e disperazione in luogo del gaio e lieto benvenuto che ti eri aspettato? E d'altra parte, Victor, come posso parteciparti alla nostra sciagura? La lontananza non può averti reso insensibile alle nostre gioie e ai nostri dolori, come potrò ora infliggere una sofferenza a un figlio da tanto tempo lontano. Vorrei prepararti alla luttuosa notizia, ma so che è impossibile. Già ora i tuoi occhi scorrono sulla pagina in cerca delle parole che ti riveleranno l'orribile verità. È morto William, il dolce fanciullo che con il suo sorriso deliziava e riscaldava il mio cuore, che era così buono eppure così vivace. Victor è stato assassinato. Alphonse Frankenstein. Ginevra, il 12 maggio 1700. Clerval, che non mi aveva perso d'occhio mentre leggevo la lettera, fu sorpreso di notare la disperazione che subentrava alla gioia da me in un primo momento manifestata nel ricevere notizie dei miei cari. Gettai il foglio sul tavolo e mi nascosi il viso fra le mani. «Mio caro Frankenstein», esclamò Harry, vedendomi piangere amaramente, «devi sempre essere infelice. Che è accaduto, amico mio?» Gli feci cenno di prendere la lettera mentre, agitatissimo, camminavo su e giù per la stanza. Le lacrime sgorgarono anche dagli occhi di Clerval mentre leggeva il resoconto della sciagura. «Non posso darti consolazione, amico mio», disse. «La tua disgrazia è irreparabile. Che cosa intendi fare?» «Andare immediatamente a Ginevra. Vieni con me, Henri, a ordinare i cavalli». Durante il tragitto Clerval si sforzò di dirmi qualche parola di conforto. «Povero William», disse, «povero bambino, ora riposa con quell'angelo di sua madre. Chi l'aveva visto radioso e felice nella sua bellezza infantile non può che piangerne la perdita immatura. Morire così, orribilmente, sentendo la stretta dell'assassino, assassino, tanto più colpevole, se ha potuto distruggere un'innocenza tanto luminosa. Povero bambino, abbiamo una sola consolazione. I suoi amici piangono e si disperano, ma lui è in pace. Il dolore è cessato, le sue sofferenze sono finite per sempre. Le zolle ricoprono la sua dolce forma e lui non conosce più pena, non deve più essere oggetto della nostra pietà. Dobbiamo riservarla a chi triste gli sopravvive». Così parlava Clerval mentre ci affrettavamo per le strade. Le sue parole mi si impressero nella mente e più tardi, nella solitudine, le ricordai. Ma allora, appena i cavalli arrivarono, montai in carrozza e salutai laconicamente il mio amico. In questo penoso stato d'animo sostai 2 giorni a Losanna. Contemplai il lago. Le acque erano placide, tutto era calma all'intorno, e le montagne coperte di neve, i palazzi della natura non erano cambiate. A poco quella calma e quella visione paradisiaca mi tranquillizzarono, e continuai il mio viaggio alla volta di Ginevra. La strada correva lungo il lago, che si faceva più stretto a mano che mi avvicinavo alla mia città. Vidi più distintamente le pendici scure del Giura e la cima luminosa del Monte Bianco. Piansi come un bimbo. Care montagne, mio bellissimo lago, come salutate questo pellegrino. Le cime sono limpide, il cielo e il lago azzurri e placidi. È una promessa di pace o una beffa alla mia infelicità? Pure, avvicinandomi a casa, caddi di nuovo in preda al dolore e alla paura. Calava la notte e quando potei intravedere soltanto le scure montagne mi sentii ancora più abbattuto. Il paesaggio mi appariva come una vasta e tetra scena di sventura e io ebbi l'oscuro presentimento di essere destinato a diventare il più sciagurato fra gli esseri umani. Ahimè, fui buon profeta. E su una sola circostanza sbagliai. Di tutta l'infelicità che immaginavo e temevo, non concepii nemmeno la centesima parte dell'angoscia che ero destinato a sopportare. Era buio profondo quando arrivai nei dintorni di Ginevra. Le porte della città erano già chiuse e fui costretto a passare la notte a Secheron, un villaggio a poco più di 2 chilometri a est della città. Il cielo era sereno, incapace com'ero di prendere riposo, decisi di andare a visitare il luogo dove il mio povero William era stato assassinato. Non potendo passare per la città, fui costretto, per arrivare a Plein Palais, ad attraversare il lago con una barca. Durante questo breve tragitto vidi i lampi disegnare splendide figure sulla vetta del Monte Bianco. Pareva che il temporale si avvicinasse rapidamente e, appena sbarcato, salii su una collinetta per seguirne meglio l'approssimarsi. Avanzava, il cielo si rannuvolò e presto sentii la pioggia cadere, prima a gocce grosse e rade, poi con violenza rapidamente crescente. Lasciai il luogo dove sedevo e presi a camminare. Sebbene l'oscurità e la violenza dell'uragano aumentassero ogni minuto e il tuono rimbombasse sopra la mia testa con terrificante fragore, la sua eco si ripercuoteva da Salève, dal Giura, dalle Alpi, della Savoia. Il temporale, come spesso avviene in Svizzera, si sfogava contemporaneamente in diverse parti del cielo. Il più violento imperversava esattamente a nord della città, su quella parte del lago compresa fra il promontorio di Belle Rive e il villaggio di Copé. Un altro illuminava di piccoli lampi il Giura e un altro ora nascondeva e ora mostrava la Mole, una montagna scoscesa a est del lago. Mentre osservavo così bella e terribile, procedevo a passo rapido. Quella nobile battaglia nel cielo elevava il mio spirito. Battei le mani ed esclamai ad alta voce: «William, angelo caro, questo è il tuo funerale, è il tuo canto funebre!» Mentre pronunciavo queste parole vidi un'ombra allontanarsi furtiva da un gruppo di alberi vicino a me. Mi fermai fissandola con attenzione. Non potevo sbagliarmi. Il balenare di un lampo la illuminò, delineandone nettamente la forma. La sua statura gigantesca, il suo aspetto deforme, più spaventoso di quello di qualsiasi essere umano. Mi dissero subito che si trattava del mostro, del repugnante demone a cui avevo dato vita. Che cosa ci faceva lì? Era forse lui? Io rabbrividii all'idea. L'assassino di mio fratello? Il pensiero mi era appena passato per la mente che subito fui convinto della sua fondatezza. Cominciai a battere i denti e, per reggermi, fui costretto ad appoggiarmi a un albero. L'ombra mi passò accanto rapida e si perse nelle tenebre. Nessun essere umano avrebbe potuto sopprimere quel gentile fanciullo. L'assassino era lui. Non potevo dubitarne. La sola idea era una prova inconfutabile del fatto. Pensai di inseguire il demone, ma sarebbe stato vano, perché un altro lampo me lo mostrò che si inerpicava fra le rocce quasi a perpendicolo del Monte Salève, una collina che limita a sud Plain Palais. In breve egli raggiunse la vetta e scomparve. Il tuono cessò, ma la pioggia continuava a cadere e il paesaggio era avvolto in un'oscurità impenetrabile. Rievocai gli eventi che avevo fino allora cercato di dimenticare, tutte le tappe del mio cammino verso la creazione, l'apparizione al mio capezzale dell'opera delle mie mani, la sua fuga. 2 anni erano ormai passati dalla notte in cui egli aveva ricevuto la vita. Era quello il suo primo delitto. Ahimè. Avevo scatenato per il mondo un mostro perverso che traeva gioia dalla carneficina e dal dolore. Non aveva forse assassinato mio fratello? Nessuno può immaginare l'angoscia che mi torturò per il resto di quella notte, che trascorsi all'aperto, bagnato e intirizzito, ma non avvertii l'inclemenza del tempo. La mia mente era un turbinare di scene di sciagura e di disperazione. Mi ritrovai a pensare all'essere che avevo gettato fra gli uomini e dotato della volontà e del potere di realizzare azioni spaventevoli, quale quella che aveva appena compiuto, come fosse il mio vampiro, il mio spettro, uscito dalla tomba e costretto a distruggere tutto ciò che mi era caro. Venne l'alba e io diressi i miei passi verso la città. Le porte erano aperte e mi affrettai alla casa di mio padre. Il mio primo pensiero fu di rivelare ciò che sapevo dell'assassino e fargli subito dare la caccia, ma quando pensai alla storia che avrei dovuto raccontare, esitai. Avevo incontrato a mezzanotte, fra i precipizi di una montagna inaccessibile, un essere che io stesso avevo creato e dotato di vita. Ricordai anche la febbre nervosa che mi aveva colto al tempo in cui risaliva la mia creazione e che avrebbe dato una parvenza di delirio a un racconto già di per sé poco credibile. Sapevo bene che avrei considerato vittima della pazzia chi mi avesse raccontato qualcosa di simile. E inoltre, la strana natura di quell'essere avrebbe eluso ogni inseguimento, ammesso che mi fosse riuscito di persuadere i miei a intraprenderlo. Ma che cosa sarebbe servito poi? Un inseguimento? Chi sarebbe riuscito a fermare una creatura capace di scalare le pendici a strapiombo del Monte Salève? Tali considerazioni mi convinsero e decisi di tacere. Erano circa le 5 del mattino quando entrai nella casa di mio padre. Dissi ai domestici di non disturbare la famiglia e andai in biblioteca ad attendere l'ora del loro risveglio. Sei anni erano trascorsi, passati come un sogno che aveva lasciato però una traccia indelebile, e io mi trovavo nello stesso luogo in cui avevo abbracciato l'ultima volta mio padre prima di partire per Ingolstadt. Genitore amato e rispettato, mi restava ancora lui. Guardai il ritratto di mia madre sopra il caminetto. Rappresentava una scena realmente avvenuta, dipinta per volontà di mio padre. Caroline Beaufort, inginocchiata, in atto di disperazione, accanto alla bara del padre. Il suo vestito era misero, le sue guance pallide, ma c'erano in lei una dignità e una bellezza che poco concedevano sentimenti di pena. Sotto il quadro c'era una miniatura di William, e nel vederla gli occhi mi si riempirono di lacrime. Tale era il mio stato d'animo quando entrò Ernst. Mi aveva sentito arrivare ed era corso a darmi il benvenuto. Nel vedermi manifestò una gioia venata di tristezza. «Bene arrivato, mio carissimo Victor», disse. «Se fossi arrivato 3 mesi fa, ci avresti trovati tutti felici e contenti. Ora invece vieni a condividere un dolore che non la può alleviare. Tuttavia, spero che la tua presenza ridarà vigore a nostro padre, che sembra essersi accasciato sotto il peso di questa disgrazia, e riuscirai a convincere la povera Elizabeth a smettere di accusarsi e tormentarsi invano. Povero William! Era il nostro beniamino e il nostro orgoglio. Mio fratello non riuscì a trattenere le lacrime e un senso di gelo mortale mi penetrò nelle ossa. Prima avevo solo immaginato l'infelicità della mia casa desolata. La realtà mi sopraffece come un nuovo e non meno terribile disastro. Cercai di calmare Ernst e gli chiesi notizie più dettagliate di mio padre e di colei che chiamavo cugina. Lei, più di tutti, ha bisogno di essere consolata. Si accusa di avere provocato la morte di nostro fratello e ciò la fa disperare. Ma dato che l'assassino è stato scoperto... L'assassino scoperto? Buon Dio, come può essere? Chi potrebbe avere il coraggio di inseguirlo? È impossibile! Sarebbe come tentare di imprigionare il vento o di sbarrare con un fuscello un torrente di montagna. L'ho visto anch'io. Era libero, la notte scorsa. Non so che cosa tu intenda, rispose mio fratello con aria meravigliata, ma tutti ci siamo sentiti molto infelici quando è stata scoperta. Nessuno voleva crederci da principio, e anche ora Elizabeth non vuole convincersi, malgrado tutte le prove. E in verità, chi avrebbe potuto immaginare che Justine Moritz, così buona e così affezionata alla famiglia, potesse rendersi capace di un crimine così spaventoso, così agghiacciante? Justine? Moritz? Povera fanciulla, è lei dunque l'accusata? Ma è un errore. Tutti lo sanno. Certo nessuno crede a una cosa simile, è vero, Ernst? Nessuno ci credeva da principio. Ma sono emerse poi circostanze che ci hanno quasi costretto a convincerci. E il suo contegno è stato così ambiguo da dare all'evidenza dei fatti un peso che temo non lascia speranza di dubbio, ma sarà giudicata oggi e potrai sentire tutto. Mi raccontò come la mattina in cui era stato scoperto l'assassinio del povero William, Justine si era ammalata ed era stata costretta a letto per diversi giorni. Durante questo periodo, un domestico, esaminando per caso il vestito che ella portava la notte del crimine, aveva trovato in una tasca la miniatura di mia madre che, a giudizio comune, rappresentava il movente del delitto. Il domestico l'aveva subito mostrata a un altro che, senza farne cenno alla famiglia, si era recato dal magistrato e, in seguito alla sua deposizione, Justine era stata arrestata. Quando le era stato contestato questo fatto, la povera ragazza aveva confermato in gran parte il sospetto con il suo atteggiamento terribilmente confuso. Il racconto era strano, ma non scosse la mia convinzione. Quindi ribattei con calore: «Vi sbagliate tutti quanti! Io so chi è l'assassino! Justine, la povera e buona Justine, è innocente!» In quel momento entrò mio padre, vidi l'infelicità profondamente impressa sul suo volto, ma egli si sforzò di porgermi un lieto benvenuto, e dopo che ci fummo scambiati i nostri tristi saluti, avrebbe abbordato qualche argomento che nulla aveva a che fare con la nostra sciagura se Ernst non avesse esclamato: «Buon Dio! Papà! Victor dice di sapere chi è l'assassino del povero William!» «Lo conosciamo anche noi, purtroppo», rispose mio padre. «Avrei preferito ignorarlo per sempre, piuttosto che scoprire una tale depravazione e una tale ingratitudine in una persona che tanto stimavo. Ma mio diletto padre, ti sbagli! Justine è innocente!» «Se lo è, Dio non voglia che sia punita come colpevole. Sarà giudicata oggi, e io spero sinceramente che possa essere assolta.» Queste parole mi placarono. Ero profondamente convinto che Justine e ogni altro essere umano fossero innocenti di questo delitto. Non temevo quindi che si potesse addurre qualche prova tanto evidente da farla condannare. La mia non era una storia da raccontare in pubblico. Il suo incredibile orrore sarebbe stato considerato pazzia dal popolino. Esisteva qualcuno, tranne me, il creatore, che avrebbe creduto, senza averne prova dai propri sensi, all'esistenza di un monumento vivente di presunzione e cieca ignoranza, che avevo sguinzagliato per il mondo. Presto fummo raggiunti da Elizabeth. Il tempo l'aveva cambiata dall'ultima volta che l'avevo vista, dotandola di un fascino che superava la bellezza di quando era fanciulla. Il candore e la vivacità erano gli stessi, ma si univano a un'espressione più ricca di sensibilità e intelligenza. «È innocente, mia Elizabeth», dissi, «e verrà dimostrato. Non temere nulla, ma lasciati confortare dalla certezza della sua assoluzione». «Quanto sei buono e generoso! Tutti gli altri la credono colpevole, e ciò mi ha fatto disperare perché sapevo che era impossibile, e vedere tutti così prevenuti nei suoi confronti mi aveva tolto ogni speranza e mi aveva ridotto alla disperazione». Scoppiò a piangere. «Carissima nipote», disse mio padre, «asciuga le tue lacrime. Se è, come credi, innocente, confida nella giustizia delle nostre leggi e nella sollecitudine con cui impedirò la più lieve ombra di parzialità».